vai. Allora, le volevo chiedere quali erano i rumori fastidiosi di Lizzana, che magari a volte sente lei. Sinceramente io abito abbastanza su e non ci sono tanti rumori. Quello che mi dà forse un po' più fastidio sono quando passano le moto, i motorini. Ok. E invece i rumori rilassanti, magari che le piacciono di più di Lizzana? Sentire cantare gli uccellini, che a casa mia li sento. Bene. I suoi vicini sono rumorosi? No. Siamo abbastanza un condominio tranquillo. Ma ha mai sentito da qua la campana di Caduce? Sì, la sento. È molto fastidiosa? No, per niente. Si sente molto lontano, però si sente e non dà fastidio. A parte che sento anche le campane del campanile di Lizzana, insomma, dopo tanto tempo non mi accorgo neanche più che suonano, che battono le orecchie.